Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Destini incrociati vi racconta spesso la storia di uomini che, incontrandosi, danno vita a qualcosa di assolutamente speciale sia per loro stessi che per tutti noi. Quella che vogliamo raccontarvi oggi, però, è una vicenda che ha dell'incredibile e pare più uscita dalle pagine di un romanzo fantasioso piuttosto che da quelle della cronaca. È la storia di un incontro destinato a cambiare non solo l'esistenza dei suoi protagonisti, ma quella del mondo intero, dello stile di vita di milioni di persone, dello sviluppo tecnologico e della realtà che viviamo ogni giorno. Per raccontarvela dobbiamo tornare indietro di molto tempo, addirittura di quasi 100 anni, per l'esattezza al 1913. Il luogo che fa da cornice all'inizio del nostro racconto è la bellissima cittadina di Friedrichshafen, che si affaccia sulla sponda nord del lago di Costanza, nel sud della Germania, proprio al confine con la Svizzera e l'Austria. Qui viene fondata agli inizi del secolo una fabbrica che tutto il mondo conosce, quella dei rinomati dirigibili Zeppelin. Il conte Ferdinand von Zeppelin, originario della vicina Costanza, sceglie Friedrichshafen quale sede della sua fabbrica, facendo costruire le sue aeronavi su una piattaforma di assemblaggio galleggiante sul lago, che può essere allineata ai venti per favorire le difficoltose procedure di movimento. La piattaforma rotante si rivela utilissima non solo per le partenze, ma anche per lo stoccaggio dell'aeronave, che rientra nell'hangar accompagnata dal vento. Si tratta di aeronavi di grandi dimensioni, 100-200 metri di lunghezza, per un diametro massimo anche di 30 metri. Muoverle non è uno scherzo. Ferdinand von Zeppelin sa bene che i suoi dirigibili non sono veicoli facili da manovrare, ma ha una certezza assoluta. Il motore che li fa muovere è il migliore che si possa concepire. Il suo ideatore, infatti, è un uomo la cui esperienza in fatto di motori è indubbia ed è forse la persona vivente che in quell'inizio di secolo ha la conoscenza più profonda e completa della meccanica propulsiva, delle sue regole e delle sue leggi. Un uomo che il conte Zeppelin ha la fortuna di incontrare alcuni anni addietro e con il quale fonda la Motorenbau GmbH. Il suo nome è Wilhelm Maybach. Mentre sta guardando un dirigibile Zeppelin che si sta alzando in volo, un'aeronave che si muove grazie a un motore costruito da lui, interamente fatto con le sue stesse mani, Wilhelm Maybach sta gioendo per avere mantenuto una promessa e riflette a tutto quello che ha vissuto fino a quel momento. La sua non è un'esistenza qualsiasi, gli sembra di avere vissuto la vita di almeno 3 o 4 persone insieme e ora finalmente sente di avere compiuto il suo destino. A 67 anni suonati, Maybach ha alle spalle 50 anni di vita dedicati interamente e in maniera maniacale, quasi folle, a un unico e appassionante amore, quello per i motori. Eppure la sua storia, per certi versi triste e ricca di vicende dai contorni foschi, inizia in un luogo che di per sé non avrebbe mai fatto presagire un destino così importante né per lui né per l'umanità tutta. Padre Gustav Werner è un personaggio scomodo. Le sue idee rivoluzionarie sono forse troppo avanti per la società tedesca di metà 800. Gli ambienti religiosi, ma anche quelli politici, guardano con sospetto al suo credo, quel socialismo cristiano che troverà molti adepti negli anni futuri, ma che per ora è una semplice utopia che tende a conciliare i fondamenti della democrazia con il solidarismo cristiano. Una via di mezzo tra una filosofia morale e un filone politico. Forse le sue posizioni sono troppo progressiste, sta pensando padre Gustav, ma lui poco importa, tira dritto per la sua strada. Lui lo sa che è quella giusta. Gli contestano soprattutto che ai suoi ragazzi, quelli dell'orfanotrofio che dirige, più che insegnare il catechismo, insegni come costruire un attrezzo da lavoro. Più che portarli in chiesa, li porta in officina. Più che avviarli alla vita religiosa, li addestra a una professione concreta. La confraternita di Reutlingen, fondata da padre Gustav Werner intorno al 1840, è in effetti un orfanotrofio molto speciale. Il suo fondatore vuole dare un futuro alle persone cadute in sventura che vi abitano, siano essi orfani o disabili, comunque gente che non ha un futuro, emarginata e destinata già dalla primissima infanzia a un'esistenza di miseria e sopraffazione. Ecco perché padre Werner realizza qualcosa di assolutamente unico. La confraternita comprende anche scuole di vari livelli, una cartiera, un'officina meccanica e una falegnameria. Insomma, una struttura completa, pronta a formare il futuro di molti giovani. La confraternita di Reutlingen, fondata da padre Gustav Werner nei pressi di Tubinga, è un orfanotrofio molto particolare, che secondo il volere del suo fondatore cerca di insegnare ai piccoli ospiti della comunità un mestiere che li possa avviare a una esistenza dignitosa. Ecco perché nel suo comprensorio, oltre a scuole per tutti i livelli di età, padre Werner realizza una cartiera, un'officina meccanica e una falegnameria. Qui, nel 1856, arriva un bambino molto speciale, Wilhelm Maybach. Ha una storia tristissima alle spalle. I suoi genitori sono morti entrambi e lui e i suoi quattro fratelli si sono ritrovati improvvisamente da soli e senza un sostegno. Mentre a Wilhelm tocca la confraternita di padre Werner. Quando varca i cancelli di Reutlingen, Wilhelm ha solo 10 anni. È una tremenda paura. Cosa gli riserverà il futuro? Sta pensando. E soprattutto, come lo tratteranno in quel posto? Lui non è niente, non è nessuno, solo un povero orfano senza protezione e senza soldi. Inutile dire che ero terrorizzato. Avevo lasciato i miei fratelli. Mi domandavo se loro fossero stati più fortunati di me ad essere accolti in una famiglia vera. A me era toccato l'orfanotrofio e non dimenticherò mai il viaggio che feci per arrivarci. Non che fosse tanto lungo il tragitto da Heilbronn a Reutlingen, ma per me fu eterno. Avrei trovato dei compagni simpatici? E come sarebbero stati i miei tutori? Forse non ho mai avuto tanta paura in vita mia. Ma ben presto le paure di Wilhelm sono destinate a dissolversi grazie alle amorevoli cure della sua nuova famiglia. Padre Werner si rivela da subito un uomo dolce e sensibile. I compagni formano un gruppo affiatato che accoglie il nuovo arrivato con quella solidarietà che spesso accompagna le persone più segnate dalla vita. Il piccolo Maybach capisce presto che quella disgrazia, la perdita dei suoi genitori, non è toccata solo a lui, ma che ci sono tanti altri bambini e bambine nella sua condizione. La vita nella confraternita è regolata da leggi sicuramente rigide, ma giuste, e con suo grande stupore Wilhelm si accorge ben presto che più che alle preghiere, come pensava lui, i ragazzi vengono indirizzati ai lavori manuali, molto, ma molto più interessanti. Padre Gustav Werner gli sta spiegando come la pensa. Vedi, Wilhelm, se tu impari un mestiere, è qualcosa che nessuno potrà più toglierti. Fin quando vivrai, tu quella cosa saprai farla e ti potrà dare da mangiare, ma non solo. Con il lavoro potrai comprarti soprattutto la dignità e il rispetto degli altri. Scegli quello che vuoi fare, quello che ti piace, che ti appassiona. E poi dimmelo, faremo di te qualcuno, ragazzo. Sono parole forti, forse un po' retoriche, quelle che padre Werner dice a Wilhelm, ma sono parole che il ragazzino non dimenticherà mai per tutta la vita. Così inizia a seguire i vari corsi. Oltre alla scuola generica, Wilhelm impara a fare il falegname, si appassiona alle tecniche di lavorazione del metallo, acquista una certa capacità nel disegno. Ma al di là di queste informazioni importantissime, che il giovane Maybach incamera come fosse una spugna, egli si interroga spesso su cosa veramente lo appassioni. Mentre sta osservando alcuni ragazzi più grandi che assemblano degli ingranaggi nell'officina meccanica della confraternita, Wilhelm capisce che più che realizzare quello che gli altri gli dicono, lui vorrebbe creare qualcosa di suo. Ne sta parlando a padre Werner, il quale sorridendo gli rivela che è già un po' che lo sta osservando e che ha capito una cosa. Lui ha la stoffa per ideare delle cose che ancora non esistono. Ha molta fantasia. Se continua a impegnarsi e a studiare, chissà, un giorno potrebbe diventare un progettista meccanico. Mentre il giovane Wilhelm continua a sognare, padre Werner si trova a dovere affrontare però un problema gravissimo che confida solo al suo diario personale. La confraternita deve poter vivere di vita propria. Le donazioni ci sono, è vero, ma si assottigliano nei periodi di crisi. Io non posso rischiare di ritrovarmi senza fondi. I miei ragazzi dove andrebbero a finire? Nessuno di loro, nemmeno i più grandi, sarebbero in grado di farcela da soli. E non voglio nemmeno pensare ai piccoli. No, devo trovare il modo di ottimizzare l'officina e la falegnameria, produrre beni che possono essere venduti. I giovani che terminano le scuole potranno lavorarci, avere un futuro e contribuire anche a dare un aiuto ai più piccoli. Devo solo trovare il modo. Il modo è uno solo. Avere un direttore che ci sappia fare. Più ci pensa e più padre Werner se ne convince. Lui è un prelato, non un ingegnere o un tecnico, è un organizzatore, ma non è certo in grado di rendere proficua un'attività. E difatti le sue finanze hanno subito parecchi tracolli. È davvero urgente trovare qualcuno che prenda in mano la situazione, che trasformi la confraternita di Reutlingen in una realtà autosufficiente e produttiva. Le teste ci sono, le braccia anche. La struttura è pronta e bene attrezzata. Ora le serve un capo. Nonostante abbia solo 17 anni, Wilhelm Maybach, così come altri ragazzi della comunità, si accorge però di qualcosa. Padre Werner è preoccupato, lo si vede lontano un miglio. E poi Wilhelm ha notato che l'attività febbrile della falegnameria e dell'officina meccanica, che lui ormai frequenta tutti i giorni, non porta a niente di concreto. Gli ospiti dell'orfanotrofio aumentano sempre. Lui si immagina che le spese di gestione di una comunità così siano altissime, ma ha sentito dire a padre Werner che non sempre le donazioni riescono a coprire tutte le uscite. Ci sarà pure una soluzione, qualcosa o qualcuno che possa dare loro una mano. A dare una mano per risollevare le sorti della confraternita di Reutlingen, l'orfanotrofio fondato da padre Gustav Werner, che verte in condizioni economiche traballanti, viene chiamato un personaggio unico, carismatico, dall'esperienza poliedrica, che alcuni sostenitori della comunità raccomandano caldamente al prelato. Il giorno del suo arrivo tutti gli orfani, gli inservienti e i collaboratori di padre Werner sono tirati al lustro. Non vogliono dare al nuovo arrivato l'impressione che siano degli straccioni, e anche se lui sa già che il suo intervento alla confraternita ha una ragione ben precisa, legata alla sua problematica situazione finanziaria, una dignità profonda regna in quel gruppo di persone che accolgono il nuovo direttore tecnico. Il suo nome, che egli recita a voce alta nel grande cortile antistante l'ingresso, è Gottlieb Daimler. Gottlieb Daimler. Il 1834 è fondamentale nella storia della futura invenzione dell'automobile. È in questo anno che viene infatti fissata la data della prima distillazione di quello che allora chiamato spirito di petrolio, prodotto dal greggio, e che solo molti anni dopo, con l'avvento del motore a scoppio, verrà usato come combustibile e, secondo le fonti più accreditate, verrà chiamato dal nome del famoso ingegnere tedesco Karl Benz proprio benzina. In questo stesso anno nasce a Schondorf, vicino a Stoccarda, Gottlieb Daimler. Suo padre è un fornaio, ma lui non ha alcun interesse nell'azienda familiare. Non gli va di fare il pane, focacce e dolcetti. Fin dalla culla si può dire che abbia un'unica passione, la meccanica. Non si deve pensare però a una personalità monotematica. Gottlieb è in realtà tutt'altro. I suoi interessi spaziano in molte direzioni. Verso i 13 anni, a parte la meccanica che era sempre e comunque il mio primo amore, mi appassionai molto di latino e poi mi piaceva anche molto disegnare. In realtà non c'era nessuna delle materie scolastiche che proprio non mi piacesse. Fin da piccolo io sono sempre stato molto curioso e quando qualcosa attirava la mia attenzione poi dovevo sapere tutto quello che c'era da sapere. Devo dire che ho studiato tantissimo nella mia vita. Terminate le scuole secondarie, Gottlieb decide di iscriversi alla Scuola Tecnica Industriale di Stoccarda. Per ottenere l'abilitazione, però, deve effettuare un tirocinio tecnico e il ragazzo sceglie la bottega di Reitel, un noto armaiolo della sua zona. Non che le armi gli piacciano particolarmente, ma ha per la testa un certo progettino che porta avanti rapidamente. È così che, bruciando tutte le tappe, Gottlieb ottiene in brevissimo tempo l'abilitazione che gli serve. Costruisce infatti una avveniristica pistola a canna doppia. Studente incredibilmente abile e poliedrico, a soli 19 anni, Gottlieb Daimler termina anche la Scuola Tecnica Industriale di Stoccarda. Insieme al diploma riceve una lettera. Viene da Grafenstaden, in Alsazia. L'intestazione sulla busta è quella dell'allora notissima Armstrong Whitworth, azienda britannica specializzata nella produzione di locomotive. Su segnalazione della sua prestigiosa scuola tecnica di Stoccarda, siamo a proporle un impiego presso la nostra filiale in Alsazia. La sua preparazione, della quale la scuola da lei frequentata parla in termini entusiastici, sarà sicuramente di grande aiuto nello sviluppo della nostra produzione. L'industria ferroviaria necessita di menti come la sua. Gottlieb sta leggendo la lettera che lo coglie di sorpresa. In effetti non aveva ancora mai riflettuto a quali potessero essere gli sbocchi professionali dei suoi studi, ma di certo non aveva pensato al fatto che avrebbero potuto portarlo lontano da casa. Il settore ferroviario è però molto interessante in rapido sviluppo e quindi, seppur sofferente per il distacco, anche dato dalla sua giovane età, Daimler lascia la famiglia. In realtà lui ha già pensato a quello che intende fare. La sua preparazione non è ancora completa, come dice lui. Questo è il motivo per cui dopo 3 anni torna a Stoccarda. Si iscrive al Politecnico, dove studia chimica, fisica, ingegneria meccanica, ma anche storia, inglese ed economia. E poi compie un viaggio che sogna da anni. Si reca a Parigi. Ha 27 anni, ma il motivo che lo porta nella Ville Lumière non è quello che spinge molti giovani ad andarci. Non sono le passeggiate romantiche sul lungo Senna ad attirarlo, non è l'arte che esplode in quegli anni e che pure gli piace moltissimo. Daimler ha una meta precisa, lo studio di Étienne Lenoir, il progettista del primo motore a combustione interna. Mentre cammina per Rue de la Moquette, dove ha sede la fabbrica di Lenoir, Daimler è terribilmente emozionato. Quel motore lo interessa moltissimo, ma dovrà presto constatare che è decisamente migliorabile. Il motore di Lenoir era terribilmente rumoroso, consumava moltissimo e tendeva a surriscaldarsi. Era montato su una sorta di carrozza a tre ruote e funzionava anche abbastanza bene, nel senso che la carrozza andava, ma il tragitto risultava scomodo e non poteva durare a lungo. Però fu un viaggio istruttivo e mi fece capire tante cose. È quest'uomo che arriva nel 1863 all'orfanotrofio di Reutlingen. Ha viaggiato per tutta l'Europa, ha studiato per anni e anni senza posa, ha un bagaglio culturale notevolissimo nonostante abbia solo 29 anni. Non è mai stato direttore tecnico e ha il suo primo incarico direttivo e forse un po' di timore deve averlo accompagnato nel suo viaggio da Stoccarda all'orfanotrofio. Ma i visi di quei ragazzi, la speranza che legge sul volto di padre Werner, trasformano ogni suo timore in una certezza. Il suo impegno sarà totale. Quei ragazzi riusciranno ad avere un futuro. Quello che ancora non sa è che in mezzo a quei ragazzi ve ne è uno che il futuro legherà indissolubilmente proprio a lui. Destini incrociati. Destini incrociati vi sta raccontando oggi la storia di una delle amicizie e delle collaborazioni professionali più incredibili e proficue dell'umanità. Un incontro che cambia per sempre la vita di tutti noi e dopo il quale il mondo non è più lo stesso. L'incontro tra Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach. Giovane ingegnere meccanico di grande esperienza, Daimler arriva in qualità di direttore tecnico alla confraternita di Reutlingen, un orfanotrofio molto particolare nei pressi di Stoccarda, diretto da padre Werner. Pastore protestante, criticato dalla comunità religiosa dell'epoca per le sue teorie progressiste e socialiste, padre Werner si convince che i piccoli orfani possano affrontare il mondo con più forza e determinazione se hanno in mano una professione. Ed è per questo che crea una struttura all'interno dell'orfanotrofio composta da una cartiera, da una falegnameria e da un'officina meccanica. Qui i ragazzi imparano un mestiere che gli consenta di avere un futuro. Ma la confraternita non è in grado di gestirsi da sola. Ecco perché padre Werner decide di assumere un direttore tecnico. Quando Daimler arriva a Reutlingen ha solo 29 anni, ma ha viaggiato per tutta l'Europa e ha una grandissima esperienza. Non avevo mai fatto il direttore da nessuna parte, ma mi convinse subito che potevo farcela. Le strutture di cui si componeva la confraternita erano ottime, i ragazzi volenterosi e padre Werner un uomo eccezionale. Il tutto andava solo ben amalgamato, ottimizzato, e avrebbe funzionato in maniera eccellente. Gottlieb Daimler non è uno che perde tempo. Si rimbocca le maniche e si mette subito al lavoro. Tra gli orfani della confraternita ce ne sono molti decisamente in gamba, ma a lui bastano pochi giorni per comprendere che ve ne è uno dalle doti assolutamente incredibili. Wilhelm Maybach. Quel ragazzino ha solo 17 anni, eppure ha qualcosa di più di tutti gli altri. Non è solo la sua determinazione, tutti gli orfani di padre Werner sanno che più imparano e più la loro vita sarà risolta. Non è nemmeno il suo modo di studiare. È certamente uno che si impegna, ma anche gli altri lo fanno. No, Wilhelm è un progettista nato. Era la sua inventiva quella che mi aveva stupito subito. La creatività. Quel qualcosa che o ce l'hai oppure no. Quella certa qualità innata che fa sì che di fronte ad un problema da risolvere si cerchi una strada mai battuta, una strada diversa. Era sempre vissuto lì, in quell'orfanotrofio. Eppure mi parve più avanti di tutti quelli che avevo conosciuto in giro per il mondo e pensai subito che sarebbe diventato qualcuno. Wilhelm Maybach, come ogni pomeriggio dopo le lezioni in classe, è in officina. La meccanica è la sua passione, non c'è niente da fare. A lui piace far funzionare le cose, gli piace mettere insieme dei pezzi che staccati non vogliono dire niente, ma assemblati nel modo giusto è come se prendessero vita, trasformandosi, come per magia. Sta pensando che quel nuovo direttore tecnico, quel Daimler, è davvero un tipo in gamba quando lo vede entrare in officina. I due sono ora seduti uno a fianco all'altro. A guardarli in fondo non sono poi così diversi. Tra di loro ci sono solo 12 anni di differenza. E poi la passione che li unisce supera qualsiasi barriera. Ben presto diventa una piacevole abitudine quella di Daimler e Maybach di collaborare in maniera concreta in officina. E così, se nel giro di alcuni anni il direttore tecnico riesce a risollevare le sorti della confraternita in maniera decisamente brillante, dall'altro quel luogo gli regala qualcosa di insperato, un collaboratore validissimo e anche un amico sincero. Quando dopo 6 anni Gottlieb Daimler decide di lasciare la confraternita di Reutlingen, trasformata in una fiorente azienda del tutto autosufficiente, non se ne va da solo. In quel luogo ha infatti conosciuto sua moglie, Emma Kurz, e ha costruito un rapporto personale e professionale talmente importante con Wilhelm Maybach da proporgli di seguirlo. La partenza da Reutlingen sancisce l'inizio di una collaborazione tra i due che darà origine a qualcosa di fondamentale per tutta l'umanità, ma segna anche l'inizio di una amicizia profondissima, destinata a durare per tutta la vita. Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach lasciano la confraternita di Reutlingen, il luogo che ha visto nascere la loro amicizia e la loro collaborazione professionale, e ora è un'azienda floridissima e non ha più bisogno della corta direzione di Daimler. Il giovane ingegnere accetta un'offerta di lavoro molto allettante. Sarà il capo delle officine meccaniche di Karlsruhe. Maybach viene assunto nell'ufficio tecnico dell'azienda e lavora a stretto contatto con l'amico. È la prima volta che esce nel mondo. Lui ha sempre vissuto all'interno dell'orfanotrofio, protetto dalla benevolenza di padre Werner, ma non ha alcun timore. Sa che non è solo. Sa che il suo amico Gottlieb è molto più che il suo capo. La loro è una squadra vincente e insieme i due giovani realizzano progressi professionali di notevole valore, tanto che alcuni anni dopo vengono chiamati all'ufficio tecnico della Deutz Gasmotorenfabrik di Colonia, azienda già ai tempi molto rinomata, il cui fondatore, Nikolaus August Otto, è l'inventore del primo motore a 4 tempi. Si tratta però di un'invenzione zoppicante. Il motore non può essere impiegato sui mezzi di trasporto perché è troppo pesante, è alto ben 4 metri ed eroga una potenza bassissima. Daimler e Maybach passano i giorni e le notti a studiarlo. Dobbiamo trovare un sistema perché possa essere utilizzato. Deve erogare una potenza maggiore, Gottlieb, almeno di 3 cavalli. E poi dobbiamo miniaturizzarlo, è troppo grosso. E poi resta comunque il problema dell'accensione. I due tecnici ottengono risultati eccellenti. Nel giro di pochi mesi riescono a risolvere alcuni dei numerosi e gravi problemi del motore di Otto. E questo non senza grandi sofferenze, soprattutto da parte di Gottlieb Daimler. Il suo carattere irruento, infatti, non va per nulla d'accordo con quello intransigente di Otto, e i due non fanno altro che litigare. Il motore però funziona discretamente e inizia a vendersi bene, tanto che Otto decide di brevettarlo per mettersi al riparo da eventuali furti dei concorrenti. Una mattina, mentre Maybach si trova in officina, irrompe come una furia il suo amico e collega Gottlieb Daimler. Wilhelm non lo ha mai visto tanto adirato. La ragione della sua collera sta nel fatto che ha appena scoperto quello che ha combinato Otto. Il brevetto del motore a 4 tempi è interamente a suo nome, nonostante l'intervento decisivo di Daimler e Maybach, senza il quale non avrebbe mai potuto essere commercializzato. Si tratta di un furto bello e buono, Wilhelm. Non intendo in alcun modo passarci sopra. Piuttosto ricorreremo ad un tribunale, ma non dobbiamo permettere che Otto ci derubi così. Nikolaus August Otto è un uomo molto furbo. Comprende subito che Daimler fa sul serio e sa anche che uno scandalo non gioverebbe affatto al buon nome della sua azienda. Propone quindi al direttore tecnico un premio produzione talmente generoso da permettergli di cambiare vita qualora lo desideri. Daimler sta ascoltando la proposta di Otto e la sua mente vola già molto lontano da lì. Quello che da molti anni sta sognando ora può avverarsi. Accetta quindi il premio produzione. Ma il giorno dopo, sulla scrivania di Otto, arrivano due lettere. Una proviene da Daimler, l'altra da Maybach. Ma il testo è il medesimo. Con la presente rassegno le mie dimissioni dalla sua azienda con decorrenza immediata. È il 1882. Con la ricca liquidazione di entrambi e il generosissimo premio produzione con il quale Otto compra il silenzio dei due tecnici, Daimler e Maybach lasciano Colonia alla volta di Bad Cannstatt, deliziosa località nei pressi di Stoccarda, nota per i suoi bagni termali. Qui Daimler acquista una proprietà, una bellissima villa con annessa una gigantesca serra, che i due amici trasformano immediatamente in un'officina super attrezzata. Mentre si trovano al lavoro, immersi nella bellissima campagna che circonda i dintorni di Stoccarda, Gottlieb e Wilhelm si sentono finalmente a posto. Questo è quello a cui aspiravano fin dai tempi della loro collaborazione nella confraternita di Reutlingen. Essere liberi di realizzare i propri motori senza dover rendere conto a nessuno. Questa è la vera felicità. Questa è l'essenza della creatività pura che non può essere imbrigliata. Incuranti per ripicca del brevetto di Otto, i due si mettono subito al lavoro e nel giro di pochi mesi mettono a punto un motore leggero, di piccole dimensioni e di notevole potenza. Anche il problema dell'accensione viene brillantemente risolto dalla mente creativa di Maybach. È perfetto, ma io non mi fido di Otto. Intendo stilare un documento dettagliato sul principio di funzionamento di questo motore, nonché del suo geniale sistema di accensione, Wilhelm. Così, se Otto dovesse rivendicare qualcosa, saremo pronti ad accoglierlo come si merita. Per provare il loro nuovo motore, il primo al mondo di dimensioni così ridotte, i due amici realizzano nel 1885 un mezzo estremamente semplice e leggero, una sorta di bicicletta a cui applicano la loro invenzione. La chiamano Reitrad ed è considerata la prima motocicletta della storia. Ma l'inventiva di Daimler e Maybach non conosce soste. Il loro motore viene applicato anche a un piccolo battello e perfino a una slitta ferroviaria. I tempi sono maturi per la realizzazione del vero grande sogno di Daimler, la carrozza a motore. Nel frattempo, Nikolaus August Otto, visti i successi dei motori di Daimler e Maybach, intenta contro di loro una causa per plagio. Grazie però alla accurata documentazione prodotta dai due tecnici, il giudice annulla il brevetto di Otto in favore di Daimler stesso. Finalmente i due amici sono liberi di fare quello che vogliono. La Wimpf & Söhn, rinomata ditta dell'epoca, costruisce carrozze di grande livello e riceve l'8 marzo 1886 una lettera che rimane nella storia. Con la presente ci pregiamo commissionarvi un esemplare del vostro modello American a cui desideriamo apportiate le modifiche di cui alleghiamo i disegni. Richiesta di aggiungere rinforzi in acciaio alla struttura in legno si rende necessaria in quanto sulla carrozza intendiamo montare un motore di 462 cc. Distinti saluti Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach. La carrozza modificata viene consegnata in agosto. I due amici la stanno guardando estasiati, li vale tutti i 795 marchi che è costata. È proprio esattamente quello che volevano. Il loro lavoro si svolge in maniera febbrile nei mesi successivi, gomito a gomito come sempre. Ed infine, nel marzo del 1887, a un anno esatto dalla lettera alla Wimpf & Söhn, la Motorküche, che significa letteralmente carrozza a motore, esce per la prima volta in strada. Va da sé che si tratta di un evento epocale. Non si è mai visto nulla di simile per le strade di Bad Cannstatt e la Motorküche suscita stupore, ammirazione, anche un po' di paura. Tra i più ignoranti e bigotti si parla addirittura di una carrozza mossa da forze demoniache. Con la Motorküche, considerata a tutti gli effetti la prima automobile a quattro ruote della storia, la vita dei due amici cambia radicalmente. Le richieste di vetture a motore si moltiplicano e l'azienda deve inevitabilmente spostarsi dalla serra di Bad Cannstatt in una sede più grande e consona al nuovo volume di lavoro. Le carrozze a motore, mosse non certo da forze demoniache ma dalla genialità degli inventori, iniziano a circolare per le strade intorno a Stoccarda per modificare il panorama che non solo lì, ma in breve anche nel resto del mondo, non sarà mai più lo stesso. Destini incrociati. A Destini Incrociati vi stiamo raccontando oggi la nascita dell'automobile inventata nel 1886 da due amici tedeschi, l'ingegnere Gottlieb Daimler e il tecnico Wilhelm Maybach. Le vicende che fanno incontrare i due li rendono amici inseparabili fin dagli anni giovanili e fanno sì che Gottlieb e Wilhelm abbiano piena fiducia l'uno nell'altro. Ma la loro invenzione fa gola a molti. Si comprende immediatamente che quella Motorküche, la carrozza a motore che i due costruiscono nella serra di casa loro, è destinata ad avere un grande successo. Persone di pochi scrupoli iniziano a gravitare intorno ai due amici. Si sa, esiste una grande differenza tra avere un'ottima idea e saperla commercializzare. E certamente né Daimler né tantomeno Maybach sono uomini d'affari. Purtroppo la loro magnifica invenzione attira gli interessi di un certo Kilian Steiner, un banchiere senza scrupoli che setaccia tutta l'Europa alla ricerca di aziende piccole ma con un grande patrimonio tecnico. Non appena Steiner sente parlare della carrozza a motore, si interessa immediatamente di chi sia il brevetto e non gli par vero di scoprire che è di un singolo privato e sconosciuto ingegnere della campagna vicino a Stoccarda. A quel punto invia due suoi prestanome, Max von Dattenhofer e Wilhelm Lorenz. I due illustrano a Daimler i vantaggi di aprire una società per azioni e si dichiarano anche disposti a intervenire economicamente per avviare una produzione massiva di carrozze a motore. Daimler, altrettanto ingenuo quanto intelligente, si lascia convincere. Nasce la Daimler Motoren Gesellschaft, con Daimler, Dattenhofer e Lorenz come soci fondatori e Maybach come capo progettista. Ma ci vuole ben poco prima che l'ingegnere si accorga dell'errore commesso e si confidi con il suo amico di sempre. Ho fatto un grosso errore, Wilhelm. Pensavo di portare forze nuove nell'azienda, invece mi trovo a lottare tutti i giorni con dei delinquenti. Tu lo sai, i nostri motori devono essere fatti seguendo determinati standard, sia di fattura che di sicurezza. Quelli non ci sentono. Insieme hanno la maggioranza e decidono loro, e noi mettiamo sul mercato motori che hanno il mio nome, ma che potenzialmente sono pericolosi. Non possiamo più stare qua, dobbiamo andarcene. Sempre in perfetto accordo su tutto, Daimler e Maybach lasciano la società e trasferiscono la loro attività in un'ala dell'Hotel Hermann, sempre a Cannstatt. Inutile dire che senza le sue menti fondatrici la Daimler Motoren Gesellschaft arriva sull'orlo del fallimento in pochi mesi, tanto che Dattenhofer e Lorenz, su ordine di Steiner, richiamano Daimler e Maybach con la coda tra le gambe. Ma un altro grande dispiacere attende i due amici. Dopo pochi mesi vengono a sapere che a Berlino Kilian Steiner, di cui loro non hanno mai sentito parlare, vende autovetture equipaggiate con i motori Daimler. È un sopruso. A loro non è arrivata alcuna commessa e soprattutto alcun pagamento. Un avvocato ingaggiato per la causa deve però cessare ogni azione legale sul nascere. Steiner ha tutti gli incartamenti che regolarizzano la sua attività firmati da Daimler. Si tratta di firme false. Ma come è possibile? Si domandano i due amici. Quando scoprono che il socio di Kilian Steiner si chiama Max von Dattenhofer, l'orribile e ignobile imbroglio appare chiaro in tutta la sua infamità. L'ingegner Gottlieb Daimler è un uomo tutto d'un pezzo. Onesto, instancabile lavoratore, amico fidato oltre che magnifico inventore. Non riesce a concepire che personaggi come Steiner, Dattenhofer, Lorenz possano aver fatto tante nefandezze a lui e alle sue società. La sua salute ne risente in maniera tanto profonda che si ammala gravemente e muore di infarto il 6 marzo 1900. Il suo amico fidato, il compagno di ore e ore di lavoro in officina, Wilhelm Maybach, non si dà pace. Sta soffrendo enormemente e sente che deve fare qualcosa affinché il perfido Max von Dattenhofer, principale colpevole della prematura morte del suo amico di una vita, possa pagare tutti i suoi crimini. Per questo motivo decide di non dare troppo nell'occhio, rimanere all'interno dell'azienda e aspettare il momento propizio per vendicarsi. Ma non deve attendere molto né fare nulla. Dopo poco, per ironia della sorte, anche Dattenhofer muore di infarto. Alla dipartita di un così orribile personaggio fa da contraltare l'ingresso nella Daimler Motoren Gesellschaft di un personaggio destinato ad avere un importante ruolo nel futuro dell'azienda. Emil Jelinek, console austro-ungarico a Nizza, uomo molto ricco ed influente, ma soprattutto grande appassionato di automobili. Jelinek ha in mente la realizzazione di una vettura da competizione che viene costruita dalla Daimler e che, su richiesta dello stesso console, viene chiamata con il nome della sua figlia prediletta, Mercedes. Questa vettura è la capostipite di un marchio automobilistico tutt'oggi sinonimo in tutto il mondo di grande prestigio. Wilhelm Maybach ha però qualcos'altro da fare. I motori Daimler sono i propulsori di mezzi sia terrestri che acquatici, ma lui deve esaudire un desiderio espresso anni addietro dal suo amico e socio Gottlieb Daimler. Vorrei che un giorno i motori costruiti da noi due possano affermare il proprio dominio nei trasporti su terra, acqua e aria. Ecco perché ora, mentre sta guardando un dirigibile Zeppelin che si alza in volo sfruttando il vento favorevole che soffia sul lago di Costanza, Wilhelm Maybach sorride felice. Chi lo guarda potrebbe pensare che sia semplicemente contento perché quel dirigibile vola grazie a un suo motore. Ma lui sa bene che quel motore non sarebbe mai esistito se un giorno un semplice orfano di 17 anni non avesse incontrato sul suo cammino il figlio di un fornaio con la passione per i motori. Dammi passione, anche se il mondo non ci vuole bene.